La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e benvenuti all'appuntamento con la storia e la memoria. L'approfondimento di Dino Pesole questa settimana è dedicato al fenomeno migratorio nella storia del nostro paese. La crisi esplosa nel Nord Africa ripropone il problema della gestione della frontiera e dei migranti in fuga che si dirigono verso le coste dell'isola di Lampedusa. Ripercorriamo la storia dell'emigrazione italiana con Emilio Franzina, docente di storia contemporanea all'Università di Verona. La parola adesso va a Dino Pesole. L'allarme lanciato dal governo italiano per gli effetti della crisi esplosa nel Nord Africa ha riproposto con forza il tema della politica dell'immigrazione nel nostro paese e in tutta Europa. Si teme un esodo che alcuni esponenti del governo hanno definito biblico. Si direbbe, ha sostenuto lo storico Valerio Castronovo sul Sole 24 Ore del 25 febbraio scorso, che abbiamo dimenticato del tutto o non conosciamo affatto come l'Italia sia giunta a far parte del gruppo di testa dell'economia mondiale. L'imponente fenomeno migratorio, avvenuto nel primo cinquantennio dopo l'unità, scrive Castronovo, oltre a funzionare da valvola di sfogo a una crescente eccedenza di popolazione e una rida di tensioni sociali, contribuì in misura considerevole allo sviluppo dell'economia italiana, agendo come una sorta di arma segreta, per dirla con Luigi Einaudi, del nostro decollo industriale. Da un lato perché le rimesse degli emigranti arrivarono a coprire in quegli anni più della metà della parte attiva della bilancia dei pagamenti. Dall'altro perché le nostre numerose comunità di emigranti, una volta trapiantate nei paesi di destinazione, aprirono i varchi per le prime esportazioni italiane. Italia, popolo di emigranti dunque, per lunga parte della nostra storia di nazione unita. Come dimenticare l'immagine delle folle di emigranti accalcate in attesa ai moli o alle stazioni ferroviarie, viaggi in gran parte dei casi di sola andata. L'apporto degli emigranti alla crescita economica del paese è in queste cifre. Per anni, le rimesse degli emigranti hanno costituito parte rilevante della nostra bilancia dei pagamenti. In totale, le rimesse effettuate attraverso canali ufficiali dal 1945 al 1960 sono state pari a oltre 2 miliardi di dollari. Dal 1946 al 1970 sono espatriati circa 7 milioni di italiani provenienti prevalentemente dalle regioni del centro e del sud. Il tasso di emigrazione, pari al 5,3% fino al 1955, è salito a circa il 6,6% dal 1956 al 1965, per poi scendere al 4% dal 1966 al 1970. La corrente continentale ha continuato a prevalere su quella transoceanica, fino a pesare per il 74% nel quinquennio 1966-70. La percentuale dei rimpatri, pari solo al 33% negli anni 1946-51, ha superato il 70% negli anni 1960-70. Alla fine degli anni Ottanta, il saldo espatri e rimpatri si è rivelato positivo di oltre 15.000 unità. Prima classe costa 1.000 lire, la seconda 100, la terza dolore spavento, puzza di sudore dal bocca forte, odore di mare morto. Se il capitano mi stia a sentire, ho belle pronte le 1.000 lire. In prima classe voglio viaggiare su questo splendido mare. Ci sta mia figlia che ha 15 anni e da Parigi ha comprato un cappello. Se ci invitasse al suo tavolo a cena stasera, come sarebbe bello. E con l'orchestra che c'è. Abbiamo in linea il professor Emilio Franzina, che è docente di storia contemporanea all'Università di Verona, autore tra gli altri di un interessante libro pubblicato qualche tempo fa da Donzelli sulla storia dell'immigrazione italiana. Benvenuto, anzi bentornato, professor Franzina. Grazie. Allora, ci dica innanzitutto se condivide questa tesi del professor Castronovo sul fatto che l'Italia pare abbia in qualche modo dimenticato di essere stato per molti anni, per molti decenni, come abbiamo sentito, un popolo di emigranti. Ma questa è un'amnesia oramai consolidata, non è un'amnesia solo a livello di opinione pubblica, ma prima ancora è nel mondo degli studi, dove coloro che si occupano di storia dell'immigrazione nell'ambito proprio della storiografia italiana sono una nicchia specialistica e quindi non c'è circolazione di informazioni e tutto quanto, se lei ci fa caso, l'interesse che è cresciuto attorno a questo fenomeno antico nostro che è durato più di 100 anni comincia quando non è iniziata l'immigrazione straniera in Italia, che è iniziata già alla fine degli anni 70, ma quando dopo 20 anni di afflusso di stranieri il numero delle presenze ha legittimato l'uscita anche di libri di tipo divulgativo come L'Orda di Stella, che hanno fatto riemergere la questione nella facile frase quando eravamo noi gli albanesi, allora adesso si potrebbe dire quando eravamo noi i rumeni, chissà quando eravamo noi i magrebini, se fosse vero, ma io non credo che sia vero, che si addensano alle porte centinaia di migliaia o addirittura milioni di immigrati nordafricani, che è una tesi che si può sostenere solo sull'onda di una emergenza obiettiva, che è l'emergenza che abbiamo sotto gli occhi della situazione nella fascia nord dell'Africa in fronte all'Italia, che è destinazione quasi obbligata di approdo, assieme peraltro, va ricordato, ad altri almeno 2 paesi che ricevono costantemente immigrati provenienti non solo dal Nord Africa ma da ogni altra parte e dell'Africa e dell'Asia, che sono la Spagna e la Grecia. Attraverso il meccanismo delle rimesse monetarie, che era per lo più affidato, specie nell'ultima fase post bellica, sì, a questa ovvia volontà degli emigranti di aiutare le proprie famiglie rimaste a casa, c'è stato un afflusso di denaro vero e proprio cash, diremmo, che ha preso la strada evidentemente dei circuiti creditizi, i quali, da dove vengono i soldi, poco si fanno carico, ma li usano per finanziare varie attività, cioè, per dirla sempre in parole povere, con i soldi degli emigranti almeno una parte, ma io credo una parte molto rilevante dello sviluppo economico nazionale e della sua trasformazione diciamo in termini di sviluppo capitalistico si è data per il sostegno che derivava da questo lavoro esercitato non in Italia ma all'estero, e quindi lo sviluppo industriale italiano in età giolittiana prima e poi soprattutto nel secondo dopoguerra ha risentito in forma benefica di questa circostanza, cioè, come dire, nell'anno del 150enario, ricordiamoci che a fare l'Italia sono stati anche quelli che erano fuori dall'Italia. Qual è stato il valore di oltre 100 anni di emigrazione italiana dal punto di vista, se vogliamo, anche sociale, per quel che riguarda lo sviluppo del nostro paese? Perché, allora, uno se ne va dall'Italia, 9 su 10 per lungo tempo, lunghissimo tempo, almeno fino alle soglie della Grande Guerra, grosso modo, quando partivano dall'Italia, in particolare i contadini, non è che partissero dall'Italia che loro intendevano come patria, perché come patria intendevano sempre il loro paese natale, inteso come villaggio, come borgo, come area provinciale, e non avevano neanche una nozione appunto di appartenenza nazionale, e invece questa se la costruiscono all'estero, punto primo. Punto secondo, questo fatto viene esaltato dalla dinamica dei rimpatri, che è stata sì fortissima, soprattutto, lo avete detto prima, nell'ultimo dopoguerra, oltre il 70%, ma che è sempre stata fra le più elevate in assoluto nel panorama delle migrazioni mondiali, cioè gli italiani, assieme ad alcuni altri gruppi etnici, sono, come ad esempio i polacchi, sono tra quelli che emigrano di più, ma che anche rimpatriano di più. E quindi questo va tenuto presente, perché vuol dire che l'esperienza dell'immigrazione, anche se prolungata, protratta per alcuni decenni, poi si conclude in Italia, e tornando in Italia, specialmente coloro, e sono la maggior parte, che se non hanno fatto esattamente fortuna, non sono diventati milionari, però insomma si sono rimpannucciati, e quando tornano non sono più così poveri e anche così impreparati, inesperti e meno acculturati della media come erano quando erano partiti, danno un contributo di primissimo ordine alla crescita della vita nazionale sotto tutti i profili. Inoltre c'è anche da considerare, al di là del meccanismo delle rimesse che è il più evidente, è chiaro che se uno sta all'estero e per 10 anni manda i soldi a casa, contribuisce alle fortune dell'economia di casa sua, non del paese in cui si trova, ed è il rimprovero che fanno gli xenofobi e i restrizionisti di ogni paese. In America ce lo dicevano a noi, ma voi venite qua, fate gli uccelli di passaggio, i famosi birds of passage, che vengono qui, mettono da parte i soldi e non consumano e non spendono niente qua, perché li mandano tutti quanti a casa loro. In effetti è anche questo che quando il denaro arriva in Italia o con le rimesse o portato appresso al ritorno, è un guadagno che è stato fatto all'estero, e però gli effetti si riscontrano qui. E dove si riscontra? Ma c'è un'infinità di posti, alcuni non esattamente positivi, perché altro esempio da fare per intendersi, molti erano partiti da zone rurali e avevano un sogno da coronare, quello di diventare proprietari di terre che normalmente lavoravano solo come affittuari o peggio ancora come braccianti. Quando tornano, in particolare nel Mezzogiorno d'Italia, impiegano quel denaro per comprare 1, 2, 3 campi di terra e creano una situazione anche squilibrata, perché molte volte l'acquisto di terra non corrisponde a una vera e propria crescita dell'economia rurale, perché si ha una sorta di spezzettamento che non è economicamente vantaggioso. Ciò non di meno c'è un'infinità di altre cose o di altri casi che dimostrano come l'emigrazione porta un miglioramento, un avanzamento, e posti che erano dal punto di vista ricettivo, turistico, assolutamente impraticabili, diventano appetibili, e ci sono un'infinità di paesi della montagna, dell'arco alpino, in cui proprio i soldi degli emigranti e gli emigranti stessi di ritorno hanno trasformato la fisionomia e il paesaggio di quelle zone, rendendolo economicamente vantaggioso. Addirittura ci sono parti d'Italia, la Riviera Ligure, dove l'emigrazione transoceanica era stata fra le più precoci, comincia già negli anni 20 e 30 dell'Ottocento. Addirittura, dicevo, dal punto di vista della fattura degli edifici, si vedono le case, le ville degli americani, e del resto, se ci pensa, e gli ascoltatori lo sanno perché esperienze del genere ce n'è in tutta Italia, è anche il modo con cui si definiscono le case degli emigrati che magari sono ancora via, ma che hanno comprato, e sono le case dei germanesi, dei canadesi, degli americani, dei brasiliani, che è il termine con cui vengono definiti gli emigranti andati a finire in quei paesi partendo da casa loro, i quali emigranti poi ovviamente quando sono in America o altrove vengono definiti tout court come italiani. La grande emigrazione che continua è quella dei cervelli, è la cosa dolorosa e anche direi vergognosa che il nostro paese oggi abbia un giro di emigrazione che è tutto quanto localizzato per la stragrande maggioranza nei settori della ricerca, dello studio, perché noi formiamo intelligenze e saperi a spese comuni, pubbliche, dello Stato e quant'altro, e poi andiamo a regalarle proprio all'estero, che è l'inverso di quello che succedeva una volta, quando si vendevano forza, sudore, braccia e si guadagnava denaro, e poi con questo denaro si costruiva la grandezza di un paese. Oggi invece è un paese che era diventato grande e che, se va avanti così, rischia di finire in una categoria direi inferiore, quasi di serie B. Professore, grazie, molto gentile. Grazie a voi, arrivederci. Buona serata, grazie.